Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sette, buonasera a tutti da Deborah Rosciani e benvenuti a Focus Economia, la trasmissione dedicata al resoconto della giornata economico-finanziaria. Giornata zeppa di impegni di carattere internazionale sul fronte economico e politico anche, perché avete sentito nel corso delle anticipazioni del giornale radio, vi daremo conto di quanto sta accadendo a San Pietroburgo, dove è in corso il vertice del G20 e naturalmente a prescindere dal gelo che c'è tra il presidente americano Obama e quello russo Putin, noi parleremo invece di questioni economiche, perché per una volta tanto, come ha giustamente oggi anche osservato il presidente del Consiglio italiano Enrico Letta in conferenza stampa a margine appunto del G20, ha detto per una volta tanto si tratta di un vertice internazionale in cui non si parla più solo di salvataggi ma anche di crescita e di sviluppo. Il presidente Letta ha avuto anche un incontro bilaterale con Putin, ha parlato Letta di un incontro molto significativo, ho spinto, ha detto fortemente Putin, a guidare un G20 in cui gli obiettivi diventino obiettivi con risultati pieni e non parziali. E per una volta tanto, ha osservato anche il Presidente del Consiglio, l'Italia non è in questo consesso internazionale l'osservato speciale. Ne parleremo diffusamente nella seconda parte di Focus Economia con l'inviato del Sole 24 Ore Alessandro Merli, ma naturalmente rimarremo anche nel nostro continente, dove oggi si è riunita la Banca Centrale Europea ed è il primo appuntamento alla ripresa delle vacanze. Tassi fermi nell'Eurozona allo 0,5%, anche se ha ammesso Mario Draghi, il numero uno dell'organismo di Francoforte, si è discusso anche tra i membri appunto del direttivo di un possibile taglio del costo del denaro nell'Eurozona. Questo appuntamento è presumibilmente rimandato a dopo le elezioni tedesche di fine settembre. Draghi ha detto tante cose interessanti, la politica monetaria rimarrà accomodante ancora a lungo, ma i benefici di questa politica monetaria espansiva devono essere anche sostenuti dai governi, che devono fare il loro lavoro per quello che riguarda le riforme dei paesi appunto dell'Unione Europea. Siamo comunque pronti ad agire sul fronte liquidità banche. Ne parleremo tra poco commentando le notizie che arrivano da Francoforte con un economista, con il capo economista di Banca Intesa San Paolo, Gregorio De Felice. E torneremo poi anche in Italia, parleremo di consumi con il rapporto sui consumi 2013 che è stato rilasciato oggi dalla COP, dal gruppo appunto dal mondo delle cooperative italiano, per quello che riguarda il settore alimentare. Fondamentalmente consumi ancora in difficoltà nel nostro paese, anche se qualche segnale anche in questo caso di attenuazione della caduta si vede, ma fondamentalmente i vertici della COP hanno detto che gli italiani sembrano ormai rassegnati ad uno stile di vita all'insegna delle rinunce. E poi parleremo di un altro tema che rappresenta per molti di voi una vera e propria nota dolente, con grande fatica. Parliamo appunto di redditometro, con la fatica perlomeno con la quale percepite e accogliete questo tema. Perché ne parleremo a Focus Economia? Perché dalla prossima settimana entra nel concreto la campagna di controlli legati al nuovo redditometro. Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono già stati allertati e in queste ore stanno ultimando le cosiddette liste selettive dei contribuenti a maggior rischio evasione, per i quali appunto il ritorno dalle vacanze si annuncia particolarmente amaro. E quindi queste 35.000 lettere, prime lettere appunto, sono pronte a partire, questi primi 35.000 accertamenti. Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore ci darà tutti i dettagli su questo tema. E in tutto questo la borsa, oggi la borsa è stata abbastanza ballerina nella mattinata, seconda parte della giornata invece positiva, confermano i rialzi gli indici europei, Wall Street positiva ma senza tanto entusiasmo, anche se oggi sono arrivati dei dati macroeconomici molto buoni, in particolar modo per quello che riguarda la produttività del lavoro. Milano più 0,7% a circa 25 minuti dalla chiusura delle contrattazioni, e oggi ancora segnaliamo la corsa di Telecom che mette a segno un rialzo di quasi 8 punti percentuali. Spread in riduzione. Detto tutto questo, andiamo alle notizie in breve. We'll be right back. Cominciamo come sempre con le materie prime. Nelle ultime ore ha ripreso a scendere in maniera abbastanza forte l'oro. Le quotazioni del metallo giallo sono a 1368 dollari l'oncia. In apertura appunto le quotazioni internazionali sui mercati appunto americani erano a 1392, quindi una discesa piuttosto forte. Per quello che riguarda il petrolio, a New York ha aperto in rialzo a 108,03 dollari al barile, adesso è sceso di un dollaro a 107,30 qualcosa. La Cina progetterebbe una zona di libero scambio attorno al polo economico finanziario di Shanghai, all'interno della quale sarebbe addirittura pronta alla decisione di portata storica di consentire solo in questa zona la libera fluttuazione della sua valuta, lo yuan. Lo riporta France Press citando una bozza dei piani di Pechino, che avrebbe anche il sostegno del neo premier Li Keqiang, che anzi vorrebbe fare di questo piano uno dei fulcri della sua amministrazione. L'idea sarebbe quella di creare un vero polo del commercio e della finanza di portata internazionale, esattamente come quello di Hong Kong, città-stato ex protettorato britannico, che dopo essere tornata sotto il controllo cinese gode oggi di un'ampia autonomia amministrativa. Si è aperto oggi in Russia il vertice G20 di San Pietroburgo, a tenere banco soprattutto le tensioni internazionali, la crisi siriana, ma si discute anche di lotta all'evasione fiscale e di shadow banking, la finanza ombra, ossia quelle istituzioni che non sono banche o finanziarie, ma che forniscono, fuori però di ogni regolamentazione, servizi analoghi. E a proposito appunto di mercati, come sapete da qualche tempo, alcune delle ex economie emergenti vivono una fase di stallo, parliamo della Cina, dell'India. I paesi emergenti, nel contesto appunto di San Pietroburgo, hanno espresso la loro preoccupazione per le ripercussioni che potrebbe avere la fine delle misure di politica monetaria messe a punto in alcuni paesi occidentali per sostenere la crescita. E quanto si legge in un comunicato proprio dei BRICS diffuso poco prima dell'inizio dei lavori del G20, nessun riferimento agli Stati Uniti, ma è chiaro che il riferimento principale è all'ipotesi di un ritiro graduale delle misure straordinarie recenti che ha attuato la Federal Reserve. La Casa Bianca ha commentato questa posizione dei paesi emergenti e ha detto: non sono decisioni che vengono prese dal presidente, chiaramente sono decisioni che attengono anche l'autonomia della Banca Centrale Americana, per cui vedremo quanta considerazione appunto verrà data a questa presa di posizione. C'è già in circolazione peraltro anche la bozza delle conclusioni del G20. Che cosa si legge? Riconoscendo la necessità di spingere avanti con più rapidità sul fronte delle riforme strutturali, dobbiamo aggiornare la nostra agenda con obiettivi più concreti e mirati. In questa bozza delle conclusioni di questo vertice si cita la necessità di sostenere la crescita e l'occupazione di lungo periodo con misure come la spesa in infrastrutture e nella formazione professionale. È il primo G20, ve lo dicevo prima, che si svolge senza che l'Italia sia il sorvegliato speciale. Per me è fonte di grande soddisfazione. Queste le dichiarazioni del Premier Letta al G20. Il primo G20 da quando di fatto il G20 è nato, nel quale l'Italia non è in difficoltà e non è il sorvegliato speciale, perché gli ultimi G20, soprattutto quelli degli ultimi 3-4 anni, sono stati G20 nei quali l'Italia era il sorvegliato speciale. Oggi non lo siamo più, questo è un motivo di grande orgoglio dovuto alle scelte fatte in questi anni, in questi mesi, e vorrei che tutti fossero consapevoli dell'importanza e degli effetti benefici che ci può consentire di avere il fatto di essere un paese uscito dalla categoria dei sorvegliati speciali. Il processo di ripresa dell'economia italiana è in corso, stiamo uscendo dalla fase di recessione. Naturalmente dal G20 di San Pietroburgo ci sono state delle dichiarazioni anche del ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni, che anche in quel luogo ha continuato ad esternare la sua il suo ottimismo a proposito delle condizioni di salute dell'economia del nostro paese. Chiaramente ha fatto un riferimento anche alle nuove tensioni politiche degli ultimi giorni, a questa possibilità che addirittura nel giro di pochi giorni si possa andare di nuovo ad una crisi di governo. Ieri la borsa ci aveva scommesso, oggi ha recuperato. Cosa dicono i ministri su questo? Saccomanni: l'incertezza politica è un fattore negativo dal punto di vista della ripresa della fiducia sulla capacità di crescita economica. Andiamo a dare qualche altra notizia dal resto d'Europa. Oggi ci sono state due notizie interessanti che arrivano dalla Francia, dove intanto c'è stato un lieve incremento del tasso di disoccupazione relativo al secondo trimestre di quest'anno. Questo tasso sarebbe salito dello 0,1% al 10,5%, mentre su base annua l'incremento è dello 0,7%. In Francia il numero dei disoccupati è oltre la soglia dei 3 milioni di persone. Il tasso di disoccupazione giovanile, anche qua non scherza, è passato dal record del 25,5% di fine 2012 al 24,6%, quindi qua abbiamo un netto miglioramento. Solex, la marca francese, storica marca francese di bici a motore fondata nel dopoguerra, intende riportare in Francia una parte della sua produzione da anni delocalizzata in Cina. A partire da gennaio, hanno detto i vertici di questa azienda, fabbricheremo 3.000 bici elettriche a Saint-Lô, in un atelier che abbiamo appena ricomprato e che occupa 8 persone, spiega il numero uno appunto del gruppo EasyBike, che ha appena rivelato appunto la marca. Il ministro per il rilancio produttivo francese, Montebourg, si recherà quest'oggi negli uffici della società di EasyBike per congratularsi dell'operazione. Una notizia che arriva dall'Italia. Estorsione e tentata estorsione aggravate dalla modalità mafiosa ai danni del presidente di Confindustria di Trapani, Gregorio Bongiorno. Con queste accuse, gli agenti della squadra mobile di Trapani hanno eseguito nella notte 3 ordinanze di custodia cautelare che sono state emesse dal GIP su richiesta della Procura distrettuale antimafia di Palermo. I provvedimenti cautelari sono stati notificati a Mariano Asaro, 57 anni, ritenuto dagli inquirenti come un esponente di spicco di Cosa Nostra del trapanese, Gaspare Mulè, 46enne, e Fausto Pennolini, 51enne, entrambi sorvegliati speciali. Sono tutti originari di Castellammare del Golfo. Vittima del racket è stato Bongiorno, imprenditore di Castellammare del Golfo nel settore della raccolta dei rifiuti e attuale presidente, come vi indicavamo, dell'Associazione degli Industriali di Trapani. Bongiorno, dopo aver subito per anni le richieste estorsive di diversi esponenti della famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo, ha denunciato 3 persone che, a partire dal 2005 e sino a pochi giorni fa, ha preteso il periodico versamento di ingenti somme di denaro per soddisfare ovviamente i bisogni dell'associazione mafiosa. L'ultima notizia in breve, poi il nostro primo approfondimento. Gli ispettori di Banca Italia hanno consegnato oggi al procuratore capo di Genova, Michele Di Lecce, la relazione sulle ispezioni effettuate nei mesi scorsi alla Banca Carige. Il documento consegnato da Banca Italia riguarda le 2 ispezioni relative alla gestione dei prestiti e mutui e alla gestione in generale dell'istituto di credito. Al momento non è stato ancora aperto un fascicolo, ma nei prossimi giorni i magistrati genovesi potrebbero avviare formalmente un'inchiesta. Il nostro primo approfondimento di oggi, andiamo a Francoforte alla riunione odierna della Banca Centrale Europea. Allora, tutto come nelle attese, oggi a Francoforte, riunione la prima dopo delle vacanze della Banca Centrale Europea, chiaramente come nelle attese, dicevamo, tassi fermi allo 0,50% e la conferenza stampa che ha seguito la decisione sui tassi tenuta dal presidente della BCE Mario Draghi. Sentiremo tra un po' alcune delle sue dichiarazioni, ma soprattutto quello che è emerso oggi da questa riunione, il nuovo contesto anche europeo che è emerso dalle ultime indicazioni fornite dai principali organismi di statistica. Anche Eurostat ha certificato nei giorni scorsi che forse dalla recessione l'Eurozona è uscita, con l'eccezione dell'Italia. Insomma, tutto questo lo commenteremo questa sera con Gregorio De Felice, capo economista del gruppo Intesa San Paolo, che saluto. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie per l'invito, buonasera a tutti. Grazie a lei. Allora, sentiamo subito Mario Draghi. Cosa ha detto? La ripresa nell'Eurozona c'è, gli ultimi dati confermano che la crescita tornata in positivo nell'Eurozona è in miglioramento graduale, ma ciò nonostante la Banca Centrale Europea manterrà una politica monetaria accomodante con tassi fermi o in calo per un periodo prolungato. E di questo oggi Draghi ha ammesso, si è discusso nel corso del direttivo, c'è stata una discussione. Sentiamo. We decided to keep the key ECB interest rates unchanged. Abbiamo deciso di mantenere invariati i tassi di interesse. Le informazioni disponibili e le ultime analisi hanno confermato ulteriormente lo scenario che esiste da tempo. Le attese circa l'inflazione nella zona euro continuano ad essere ancorate e in linea con l'obiettivo di mantenerla al di sotto, ma vicina al 2% nel medio termine. Allo stesso tempo il PIL, nel secondo trimestre, ha registrato un segno positivo dopo 6 trimestri negativi. Inoltre, gli indicatori sulla fiducia fino ad agosto confermano gli attesi miglioramenti nell'attività economica. Guardando più lontano, la nostra politica monetaria rimarrà accomodante per tutto il tempo che sarà necessario e giustificato dal contesto generale. Il Consiglio direttivo conferma che conta di tenere i tassi di interesse a livello attuale o più bassi per un periodo prolungato. Circa il taglio dei tassi c'è stata una discussione, come è successo le altre volte. Alcuni governatori hanno osservato che la ripresa in corso non avrebbe giustificato questa discussione, mentre altri hanno sottolineato che la ripresa è ancora troppo lenta. Per esempio, il credito è ancora debole e la disoccupazione è ancora alta. If you look at that, slack is still wide, weak credit, weak money aggregates, inflation is subdued in the medium term, unemployment is still high. Gregorio De Felice, cosa succede? Si sta ricreando un'altra volta una divisione all'interno della BCE tra le cosiddette colombe e i falchi, tra chi vorrebbe continuare questa politica accomodante o chi già vorrebbe, con la scusa di questi piccoli segnali di ripresa, addirittura ricominciare ad invertire la rotta, oppure comunque saranno tutti concordi poi in una nuova riduzione dei tassi, che il mercato è abbastanza confidente in questo, è un'iniziativa che verrà adottata dopo le elezioni tedesche di fine settimana. Ma io non credo sia questo il centro del problema, nel senso che oggi Draghi si trova di fronte a un compito che è piuttosto difficile, cioè da un lato lui sta cercando di, lui, il board della Banca Centrale Europea stanno cercando di dare fiducia al mercato e addirittura prospettare la possibilità di un ribasso dei tassi che a mio modo di vedere è abbastanza improbabile, e al tempo stesso però con l'obiettivo di non alimentare attese di rialzo dei tassi di interesse a medio-lungo termine. E noi dobbiamo guardare alle decisioni della BCE anche in un contesto internazionale. La Fed, da quando la Fed ha fatto capire che sta per terminare o per rallentare quel processo di acquisto di titoli, fino ad oggi 85 miliardi di dollari al mese, noi stiamo vedendo un rialzo dei tassi a lungo termine americani che in qualche modo si è riflesso anche sull'Europa. Quindi l'obiettivo principale, a mio modo di vedere, della BCE è evitare di assorbire troppo dagli Stati Uniti per quanto riguarda il rialzo dei tassi a medio-lungo termine. Sarà possibile questa appunto capacità di respingere anche questa influenza americana che arriverebbe? Ma io credo fino a un certo punto potrà essere attenuata. Se vediamo ai numeri, insomma, da aprile ad oggi i tassi americani sono saliti dall'1,7 al 3% attuale, quelli tedeschi dall'1,2 al 2. Al 2, sì. Quindi siamo più o meno a 2/3 di quello che siamo riusciti a limitare a 2/3 l'impatto dei tassi americani. Per cui Draghi gioca un po' su questo, cioè dice potremmo addirittura abbassarli ancora i tassi, perché la ripresa c'è, ma è una ripresa debole, con tanti, con gli indicatori citati prima nel servizio, ripresi dall'intervista, che sono ancora deboli, in particolare il mercato del lavoro, cosa che invece in America è un po' diversa, come sappiamo. Infatti, oggi tra l'altro proprio dagli Stati Uniti sono usciti alcuni dati che sono stati, mi sembra, considerati e giudicati positivamente dal mercato. Intanto i sussidi settimanali di disoccupazione sono scesi ai livelli pre-recessione. Le richieste sono calate di 9.000 unità al livello di 323.000 nella settimana che è terminata il 31 agosto. Questa è una vigilia importante perché domani viene diffuso il dato sulla disoccupazione americana di agosto e quindi c'è un altro test assolutamente rilevante. C'è stato anche il dato sulla crescita della produttività nel secondo trimestre di quest'anno, rivista al più 2,3%. Il dato è migliore delle attese degli analisti che si attendevano un rialzo del 2%. Che valore ha questa statistica, dottor De Felice? Ma questi dati ci confermano che l'economia americana è più avanti rispetto a quella europea nell'uscita dalla grande crisi dovuta al debito, prima il debito privato e poi quello pubblico. Loro sono più avanti perché hanno guadagnato tempo con una Federal Reserve particolarmente accomodante, questo era possibile dallo statuto, e quel tempo guadagnato è stato impiegato per supportare il sistema produttivo, per investire nel settore energetico. Gli Stati Uniti hanno conquistato una indipendenza energetica che alcuni anni fa non avevano, molte imprese americane stanno tornando a reinsediarsi sul territorio statunitense, mentre prima andavano fuori. C'è tutto un sistema di incentivazione alla ricerca e allo sviluppo che rende oggi il potenziale di crescita degli Stati Uniti vicino al 3%. In Europa neanche la Germania arriva a questi valori, si ferma intorno all'1,8 al 2%. Certo, loro hanno un problema grosso che è quello del debito pubblico creato per guadagnare questo tempo. Se però l'economia nel frattempo cresce, non sarà un dramma dover aumentare prima o poi il livello di tassazione sulle famiglie americane. Citando la Germania, lei ci ha riportato in Europa, le faccio sentire cosa ha detto Draghi relativamente al prodotto interno lordo di questo continente, le stime per il 2013 e anche le stime per il 2014. Following six quarters of negative output growth, dopo sei trimestri negativi, nell'area euro la crescita è tornata positiva dello 0,3% nel secondo trimestre dell'anno. Questo progresso è in parte dovuto a effetti transitori nella prima parte dell'anno, ma gli indicatori relativi alla fiducia aggiornati ad agosto sono ulteriormente migliorati dai livelli più bassi. E ciò ha confermato le nostre attese per una ripresa graduale dell'attività economica. Guardando più avanti, fino alla fine dell'anno e al 2014, ci attendiamo che la ripresa abbia un ritmo lento, ma sostenuta da un graduale miglioramento della domanda interna e dalla nostra politica accomodante. L'attività economica della zona euro dovrebbe beneficiare anche del rafforzamento della domanda esterna di esportazioni. Inoltre, i miglioramenti sui mercati finanziari, a partire dalla scorsa estate, sembra che si facciano lentamente sentire anche sull'economia reale, così come dovrebbe anche farsi sentire il miglioramento sul fronte dei conti pubblici. Gregorio De Felice, noi prendiamo atto naturalmente di queste cifre, le raccontiamo e poi veniamo puntualmente tempestati dalle osservazioni degli ascoltatori che ci chiedono: ma dove la vedete questa ripresa? Ci concretizza un po' queste statistiche rilasciate da Draghi, appunto, ce le, come dire, fa immaginare un po' più nella concretezza dove sta avvenendo questa crescita tale appunto da far ritornare verso l'alto queste percentuali indicate dal presidente della BCE? Innanzitutto i dati di Draghi si riferiscono all'Eurozona nel suo complesso e non all'Italia, come immagino sia invece la percezione degli ascoltatori. Certamente. Lui insiste sulla gradualità della ripresa. In ogni caso il 2013 anche nelle previsioni della BCE si chiude con un meno 0,4. Venendo all'Italia, piccolissimi segnali più che di ripresa, di interruzione del processo di contrazione ci sono, per esempio le retribuzioni contrattuali in termini reali, cioè deflazionati dall'andamento dei prezzi, sono diventate leggermente positive. non perché aumentino salari e stipendi, ma semplicemente perché l'inflazione, perlomeno quella ufficiale, è diventata più bassa. Altre indicazioni, gli ordini per le imprese, non soltanto da parte dell'estero, ma anche gli ordini domestici, stanno leggermente migliorando. In Italia non possiamo parlare ancora di ripresa, diciamocelo chiaramente, siamo in una fase in cui la velocità di contrazione è rallentata e probabilmente avremo una stabilizzazione tra questo trimestre e l'ultimo trimestre di quest'anno. Un ultimo commento, De Felice, anzi gliene chiedo due, ma la domanda che le faccio è unica: che ne pensa del patto di Genova siglato un paio di giorni fa tra sindacati e Confindustria per rilanciare l'economia italiana, un'agenda molto chiara dettata con pochi punti al governo, e cosa ne pensa qualora dovesse verificarsi una crisi di governo in Italia, quali tipi di pericolo appunto va incontro l'economia del nostro paese, nell'immediato, chiaramente nel medio certo, termine. L'accordo siglato a Genova secondo me è un bel accordo, dà chiaramente il messaggio al governo in cui le parti sociali vogliono un'attenzione maggiore per quanto riguarda il sistema produttivo. Si chiede stabilità negli incentivi alla ricerca e sviluppo, si chiede di detassare la produttività, si chiede soprattutto una fortissima semplificazione nell'ambito della pubblica amministrazione, le cui inefficienze rappresentano una palla al piede sia per le imprese e di conseguenza per i lavoratori. Il governo deve, credo, insomma lo vediamo tutti, non andare in crisi e portare avanti questa agenda, possibilmente di contemperare posizioni diverse, lo abbiamo visto per quanto riguardava l'imposta sugli immobili. Interrompere il cammino in questo momento credo che non sarebbe molto responsabile. Male a tutti, ecco. Grazie a Gregorio De Felice, capo economista del gruppo Intesa San Paolo. Buonasera. Buonasera, grazie, buon lavoro. Molto. 17.37, ancora buonasera da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Focus Economia. Abbiamo parlato nella prima parte del nostro programma della riunione odierna della Banca Centrale Europea, tassi fermi, segnali timidi di ripresa nell'Eurozona, segnali che non coinvolgono ancora pienamente, anzi per niente affatto diremmo, l'Italia, paese al quale soprattutto dal fronte politico si chiede una grande attività di responsabilità, come dire. Tra l'altro, a proposito di banche centrali, ricordiamo che ieri sera dagli Stati Uniti è arrivato il Beige Book, il rapporto periodico della Federal Reserve, che poi si riunirà per quello che riguarda invece la sua riunione appunto relativa alle decisioni sui tassi a metà mese. Ieri invece è stato diffuso il Beige Book, che conferma in quel caso appunto la ripresa economica americana. Oggi riunione anche della Bank of Japan, che ha rialzato la sua valutazione sull'economia nipponica per la prima volta in due mesi, rilevando che si sta riprendendo moderatamente con la solida spesa dei consumatori e gli investimenti aziendali. E per completare il quadro, oggi la Bank of England ha lasciato nel Regno Unito i tassi fermi allo 0,5%. Tutto questo oggi ha avuto le sue ripercussioni in borsa? La domanda che giriamo alla collega di Radio Core, il Sole 24 Ore, Flavia Carletti, che saluto. Flavia, buonasera. Buonasera a tutti. Giornata abbastanza, l'ho definita prima, ballerina, soprattutto questa mattina, quando gli indici, se non mi ricordo male, sono partiti bene, poi hanno virato a ribasso, in particolar modo Milano, poi è ritornata su, adesso vedo che la chiusura invece non credo che cambierà di segno. Sì, esattamente, la mattinata è stata molto volatile proprio in attesa della Banca Centrale Europea, cioè, si erano attese anche se per caso fossero arrivate indicazioni dal G20, svolgimento a Mosca sulla situazione siriana, però diciamo che l'attenzione è stata molto più concentrata su Francoforte. Dopo poi che c'è stato l'annuncio dei tassi di interesse, la conferenza stampa di Draghi, le borse in qualche modo si sono riallineate su valori positivi e hanno chiuso infatti in positivo. Milano ha chiuso a 0,7% con il FTSE All Share e più 0,78%. 0,78% con il FTSE MIB, in linea con le altre borse europee, anzi ha fatto anche un po' meglio per esempio di Francoforte. Ha fatto anche un po' meglio, esatto, ricordiamo che però ieri aveva fatto peggio perché naturalmente un po' sempre lo spettro della crisi di governo agita gli investitori che guardano a Milano. Allora do anche la chiusura del resto d'Europa, anche se ancora non è definitiva: per Parigi più 0,66%, Francoforte più 0,48%, Londra più 0,69%. Andiamo ai temi della giornata. Qua protagonista assoluta, vuoi un giorno di borsa, vuoi un giorno delle cronache finanziarie, anche se poi magari la prestazione di borsa non è particolarmente rilevante, Telecom Italia più 8,39%. C'è un consiglio di amministrazione il 19 settembre, di cosa si parlerà? Allora, secondo le indiscrezioni stampa, questo consiglio di amministrazione servirà per discutere di un aumento di capitale riservato per l'ingresso di un nuovo socio, e sempre secondo indiscrezioni stampa sarebbe tornato a farsi avanti per entrare in Telecom Italia Sawiris, che già un anno fa si era detto disponibile e interessato al gruppo italiano. Inoltre, sempre nella stessa riunione di CDA, si discuterà anche di efficienze e di sinergie per 800 milioni di euro, e queste sarebbero misure che dovrebbero evitare a Telecom Italia un eventuale downgrade, perché comunque sulla società pesa sempre la questione del debito. Quindi un downgrade, una nuova riduzione di giudizio da parte delle agenzie di rating. Esatto. Atlantia più 3,70%, che cosa dobbiamo questa prestazione? Beh, Atlantia ha beneficiato da una parte di un giudizio positivo degli analisti di Bank of America, Merrill Lynch, che hanno passato il loro giudizio da underperform a buy, quindi in qualche modo c'è stata una grossa promozione, consigliano adesso di comprare il titolo, e in più quello che ha scatenato effettivamente gli acquisti è stato il fatto che i dati sul traffico di agosto hanno mostrato una crescita, ed è dopo tutta una serie di dati negativi in qualche modo si rivede una ripresa. Con la ripresa del traffico probabilmente c'è anche speranza che i dati finali dell'anno possano essere migliori di quanto si era previsto. Non abbiamo dato, intanto, come osservano giustamente alcuni ascoltatori, le performance degli indici americani. Per il Dow Jones abbiamo un rialzo dello 0,12%, per il Nasdaq più 0,30%, Standard & Poor's più 0,23%. Lo spread fra BTP e Bund, se non sono cambiate le cose negli ultimi istanti, era fino appunto a metà pomeriggio intorno ai 246 punti base. Gli altri titoli che hanno avuto appunto prestazioni interessanti a Piazza Affari: Pirelli più 3 punti, Buzzi Unici più 2,97%, la Galassia Finmeccanica come si è mossa oggi dopo il balzo di ieri appunto del principale titolo di questa Galassia, che è la stessa Finmeccanica? Beh, è continuato ad andare bene. Finmeccanica oggi ha fatto più 1,28%, Ansaldo STS ha fatto più 2,66%, e in particolare per Finmeccanica gli acquisti sono stati stimolati soprattutto dalla questione della vendita di Ansaldo Energia. Ieri sera c'erano state delle conferme da parte della società di queste trattative avanzate con i coreani di Dosa, che sono interessati proprio a questa controllata, e la società le ha confermate, anche se ha detto che per ora non è stato raggiunto nessun accordo vincolante. Ricordiamo che Finmeccanica di Ansaldo Energia ha il 55% e la valutazione dell'intero 100% della società è tra 1,2 e 1,4 miliardi di euro, quindi comunque una vendita andrebbe ad aiutare Finmeccanica, che anche lei come Telecom è una di quelle società che ha sempre il problema del debito elevato. Però c'è qui la questione del fondo strategico italiano che potrebbe entrare, quindi in qualche modo si pensa che possa esserci uno stop del governo su queste operazioni, perché si aspetta in qualche modo anche un intervento eventualmente di Cassa Depositi e Prestiti sulle controllate di Finmeccanica. In ogni caso il mercato in qualche modo sta scommettendo su queste vendite e su un esito positivo, in particolare proprio su Ansaldo Energia, e in attesa che possano esserci sviluppi. Poi riguardo a questo, in qualche modo si pensa che Finmeccanica possa magari venderne solo una parte, tenerne una che poi potrebbe cedere al fondo strategico, quindi in qualche modo comunque le notizie sono viste positive, perché in ogni caso Finmeccanica una parte della società la venderebbe. Insomma, c'è questo movimento, e in ogni caso quando c'è qualche cosa che si muove in qualunque società quotata, gli investitori sono sempre allerta e trovano sempre qualche modo appunto per speculare su queste operazioni. A proposito delle aziende che gravitano attorno a Finmeccanica, STM più 1,77% continua ad andar bene da quando Microsoft ha effettuato l'operazione Nokia 2 giorni fa. Sì, esattamente, la società che era stata comunque una di quelle che negli ultimi 3 mesi era andata peggio degli indici, con questo risvegliarsi dell'attenzione su tutto il settore tech continua a beneficiare degli acquisti. Non ci sono novità per quanto riguarda STM in particolare, però tutto il fermento nel settore che ha creato questa acquisizione di Microsoft su Nokia continua a tenere gli investitori molto attenti su un titolo come STM, che negli ultimi 3 mesi rispetto agli indici era andato meno dell'11%. Tra l'altro vedo che anche tra i titoli per così dire dire minori, visto che abbiamo fatto tutto il ragionamento su Telecom pochi minuti fa. I titoli di risparmio oggi sono stati di Telecom i più gettonati in assoluto, più 9,94%. C'è anche da segnalare la dichiarazione del presidente di Telecom Franco Bernabè, che da Bruxelles, dove ha partecipato appunto ad un meeting del settore, ha detto: in Europa in questo momento c'è grande movimento nel settore delle telecomunicazioni, riferendosi chiaramente anche all'operazione dei giorni scorsi Vodafone Verizon. Quindi è evidente che sui giornali ci sono le ipotesi più disparate su quel che potrebbe avvenire in riferimento a Telecom, e comunque ha detto: tutto quel che sarà deciso, se sarà deciso, verrà discusso a partire dal CDA del 19 settembre. I titoli invece che oggi sono andati non particolarmente bene: Salvatore Ferragamo, meno 1,63%, ma questo titolo ha spiccato letteralmente il volo dall'inizio dell'anno, per cui ogni tanto si ferma. Saipem, meno 1,39%, Fiat SPA, meno 0,77%, Diasorin, meno 0,65%. Nel settore bancario, tutto sommato, giornata tranquilla, c'è una notizia che riguarda il Banco Popolare. Sì, esattamente, il Banco Popolare ha fatto più 0,57%, ritracciando sul finale rispetto ai massimi di seduta, ma si è mantenuto meglio di altri titoli del comparto, che oggi non ha brillato particolarmente, perché è arrivata la notizia che ha venduto il 2% che deteneva in Azimut, era una sua partecipazione storica, e questo le ha permesso di avere una plusvalenza di circa 30 milioni di euro, che le permette comunque di migliorare i suoi capital ratio. Tra l'altro, decisione anche curiosa, perché Azimut, che è la società del risparmio gestito guidata da Pietro Giuliani, va molto bene in borsa, va molto bene anche come business, e oggi ci sono stati, tra l'altro, per concludere il nostro cerchio, Flavia, i dati sull'andamento dei fondi comuni di investimento di agosto, se non ne ricordo male, c'è luglio-agosto, non mi ricordo quale mese si riferisce alla rilevazione, ma c'è un nuovo record della raccolta. Sì, esattamente, sono andati bene tutte le sia suggestioni che la stessa Azimut ha dato la raccolta di agosto. Per quanto riguarda per esempio Azimut, è salita di 236 milioni, portando quella da inizio anno a 1,9 miliardi di euro, e per quanto riguarda Assogestioni, sì, c'è stata anche lei, ha dato delle cifre record, quindi diciamo che tutto il settore si è ritrovato con dei dati positivi, e quindi Azimut già poteva pagare in qualche modo forse una notizia di un'uscita di un investitore importante. Invece alla fine è stata aiutata sia dalla notizia di Assogestioni che poi nel finale di seduta anche dai suoi dati, e quindi non ha risentito più di tanto di questa uscita del Banco Popolare. Esatto. Flavia, grazie per essere stata con noi, buona serata. Grazie. E parliamo di consumi, tema che svisceriamo in lungo e in largo in occasione della pubblicazione delle statistiche quotidiane, per esempio quelle che si riferiscono alle vendite al dettaglio. Insomma, ci sono ricorrentemente tanti pretesti che raccogliamo per poter andare a monitorare le abitudini di consumo delle famiglie, che sono sempre più all'insegna del risparmio, all'insegna appunto delle rinunce. Oggi intanto è stato diffuso l'indicatore dei consumi di Confcommercio, che a luglio ha registrato un calo del 2% su base annuale. Nei primi 7 mesi dell'anno si registra una flessione del 3,7%. Confcommercio commenta: il crollo è finito, ma la ripresa è lontana e sempre pesante il calo dei consumi per trasporti, alimentari e bevande. Gli italiani sembrano ormai rassegnati ad uno stile di vita all'insegna delle rinunce. Questo invece è il messaggio che emerge dal rapporto COP 2013 Consumi e Distribuzione, che come ogni anno va a fotografare il paese proprio attraverso il carrello della spesa. In quest'anno, stima l'insegna leader di mercato, la contrazione media annua sarà del 2,2%, dopo un calo del 4,3% nel 2012. Il reddito disponibile reale delle famiglie italiane si ridurrà mediamente dell'1,4%, nel 2012 si è ridotto del 4,8%, raggiungendo una contrazione complessiva del 10,2%, pensate, negli ultimi 6 anni. Gli italiani tagliano le spese e bandiscono i vizi. Per i vini è una vera e propria debacle, meno 4% nell'ultimo anno, gli aperitivi si riducono del 5%, superalcolici, amari e liquori oltre il meno 3%, mentre per il segmento fumo la lancetta ritorna al 73% per il numero di sigarette fumate, meno 14% in 2 anni. E beh, insomma, almeno ne avrà, speriamo, beneficiato la salute. Gli italiani si negano anche il piacere del caffè, con con una flessione a valore pro capite del comparto pari al 21%, in 6 anni resistono gli accessori, sentite questa, per il sexual entertainment più 6,4%, preservativi e Viagra cresciuti di quasi l'8% in 2 anni. La spending review è entrata nei consumi delle famiglie, lo ha detto Enrico Migliavacca, vicepresidente vicario dell'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori Coop, lo ha intervistato per noi la nostra Maria Luisa Pezzali. Beh, la spending review è entrata in modo pesante nella politica economica delle famiglie italiane, nel senso che c'è stata una diminuzione consistente delle vendite e dei consumi, in particolar modo in praticamente tutte le grandi tipologie. In particolare colpisce il consumo alimentare, che è tornato ai livelli degli anni 60. Il consumo alimentare è tornato indietro rispetto ai tempi in cui c'era questa grande opulenza nel nostro paese. Sotto un certo aspetto c'è una maggiore attenzione. C'è una maggiore attenzione sui consumi, c'è una maggiore attenzione anche sullo smaltimento dei rifiuti. C'è un'attenzione sugli acquisti, si acquistano i prodotti che poi si consumano. Non si butta via più niente. 8 italiani su 10 hanno modificato i loro comportamenti d'acquisto in questi anni. Quali sono le strategie che hanno messo in atto? Tutte le strategie possibili e immaginabili, nel senso che gli italiani sono estremamente attenti agli acquisti alimentari, li hanno cambiati anche in virtù del fatto che sono passati dalla carne di manzo e vitello alla carne di pollo, cioè costo chiaramente inferiore, alla carne di maiale, hanno cambiato alcune tipologie, diminuzione olio d'oliva, proprio perché c'è questa situazione economica che incide pesantemente. Un dato che mi ha sorpreso è che per la prima volta a distanza di molti anni, anche per quanto riguarda i prodotti dei bambini, c'è stata una diminuzione negli acquisti, perché il bambino è sempre stato salvaguardato nella famiglia italiana. Quest'anno vediamo che anche sui prodotti dedicati all'infanzia c'è stata una diminuzione considerevole, è un fatto nuovo questo. Nel panel che avete presentato concludiamo con l'unica nota positiva, che riguarda il sexual entertainment, così era definito. Sì, devo dire che siamo andati un po' alla ricerca di una nota più. La nota più è quella, nel senso che c'è stata una crescita consistente di tutti questi prodotti a livello farmaceutico, che sono in crescita costante oramai da diverso tempo. E naturalmente questo è il punto che ha scatenato il maggior numero di sms che ci stanno arrivando al 349-238-6666. Qualche commento e anche, per la verità, pertinente: visto che non si va più a mangiare la pizza, si sta a casa a fare sesso, osserva un ascoltatore. Ma noi intanto andiamo avanti ad analizzare questo rapporto COP. A questo punto, come si possono rilanciare i consumi in Italia, come si possono far ripartire? Il presidente di COP Italia Marco Pedrone ritiene che industria e distribuzione si devono alleare. Sentiamo anche Marco Pedroni, sempre al microfono di Maria Luisa Pezzali. Purtroppo il quadro è ancora duro, ma si possono fare delle cose, le deve fare sicuramente il governo per sostenere la domanda interna, io penso anche aiutando i ceti più poveri, più deboli, ma anche il ceto medio ad aumentare un po' il proprio potere d'acquisto. Ma possono fare cose importanti non solo l'industria agroalimentare, ma anche la distribuzione. Dobbiamo davvero trasferire tutto quello che possiamo trasferire ai consumatori, al loro potere d'acquisto, perché senza una spinta ai consumi e alla domanda interna questo paese non può ripartire. Come farlo? Con tante attività concrete. Noi ci incontreremo con l'industria nelle prossime settimane per discutere di questo, e penso che troveremo anche buone disponibilità. Lei ha parlato di un patto di sistema, ci sono già sul tavolo delle misure concrete sulle quali potrete confrontarvi? Purtroppo no, perché un patto di sistema ha bisogno di un regista, il regista può essere solo la mano pubblica e il governo, speriamo che non cada, anche se finora non ha fatto un granché, però se cade sarà un disastro. Se non cade il governo, si tranquillizzano un po', bisogna che ci chiamino e ci chiedano tutti quanti cosa potete fare per il paese. Noi ci siamo come COP, è parte della nostra missione, ma penso che ci possano essere in tanti altri, sia dell'industria che della distribuzione. In questo scenario è ancora pendente la questione del possibile aumento di un punto dell'IVA, ecco, voi come giudicate la cosa? Molto negativamente, perché ogni aumento di una tassazione generalizzata deprime l'economia del nostro paese. Un punto di aumento dell'IVA può sembrare poco, ma in realtà deprimerà ancora la domanda interna e attraverso questa via ancora l'occupazione e penalizzerà il paese. Quindi è la cosa sbagliata da fare. Secondo le vostre previsioni, in che misura andrebbe ad incidere sul potere d'acquisto delle famiglie? È abbastanza difficile fare una stima puntualissima, però se ogni punto di aumento di una tassazione come l'IVA pesa sulle famiglie non meno di 0,3-0,4, e ci ho messo dell'ottimismo perché vuol dire che comunque industria, distribuzione e altri soggetti si accollano all'altro 0,6. Qualche indicatore in positivo sta arrivando di questa mattina, i dati di Confcommercio che parlano di uno stop nel crollo dei consumi e poi l'indice di fiducia dei consumatori e delle imprese che è tornato a risalire, addirittura ha toccato i massimi da 2 anni a questa parte. Le vostre previsioni però per il 2014 sono in negativo. Allora, che l'indice della fiducia sia risalito è una bufala. Che ci sia stato nelle ultime settimane qualche segnale di rallentamento della decrescita è vero, però bisogna ricordarsi che tutti i dati negativi che abbiamo accumulato negli ultimi 5 anni sono tutti lì. E quindi se prima perdevo il 3%, adesso perdo lo 0,5, il totale è meno 3,5, non un recupero degli altri punti. Se non ricordiamo questa cosa, non sappiamo neanche spiegarci perché il potere d'acquisto delle famiglie italiane è quello degli anni 70. E quindi o c'è un'inversione molto più significativa, non si può parlare di ripresa. Ci ritrovati in diretta a Focus Economia. Ancora buonasera da Deborah Rosciani. Rapidamente una sintesi della giornata di borsa che si è conclusa positivamente per Milano, più 0,78% sul FTSE MIB, bene anche le altre piazze, benino adesso anche Wall Street, questo dopo la Banca Centrale Europea che ha lasciato invariati i tassi di interesse nell'Eurozona allo 0,50%, la politica monetaria accomodante proseguirà ancora a lungo, il PIL dell'Eurozona però cresce leggermente più delle previste, quindi sono state riviste a rialzo le stime di crescita per l'intero 2013. Questa è proprio la sintesi più radicale della giornata che si è svolta oggi a Francoforte, una giornata che in genere viene seguita da Alessandro Merli del Sole 24 Ore, in queste ore però impegnato a San Pietroburgo per il vertice G20. E io allora lo saluto. Alessandro, buonasera e benvenuto a Focus Economia. Buonasera a voi, grazie. Allora, tanto per cominciare, oggi c'è stata questa dichiarazione, facciamo un piccolo focus sull'Italia, inevitabilmente poi andiamo anche alle questioni economiche mondiali che vengono appunto analizzate in questo vertice. Parlando dell'Italia, farei riascoltare di nuovo quello che ha detto oggi il Premier Letta, perché ha detto con una certa soddisfazione: questo è il primo G20 che si svolge senza che l'Italia sia il sorvegliato speciale. Sentiamolo. Il primo G20... da quando di fatto il G20 è nato, nel quale l'Italia non è in difficoltà e non è il sorvegliato speciale, perché gli ultimi G20, soprattutto quelli degli ultimi 3-4 anni, sono stati G20 nei quali l'Italia era il sorvegliato speciale. Oggi non lo siamo più, questo è un motivo di grande orgoglio dovuto alle scelte fatte in questi anni, in questi mesi, e vorrei che tutti fossero consapevoli dell'importanza e degli effetti benefici che ci può consentire di avere il fatto di essere un paese uscito dalla categoria dei sorvegliati speciali. Alessandro, come tu sai, dei politici non ci fidiamo al 100%, le loro dichiarazioni le dobbiamo sempre maneggiare con cura, ma qual è la tua sensazione? Siamo davvero guardati con un po' più di rispetto a quello che accadeva appunto negli ultimi anni, sempre in occasione di questi grandi vertici internazionali? È davvero finito il periodo in cui l'Italia è il grande osservato speciale mondiale? Non dico mondiale, ma insomma... Diciamo che l'Italia era uno dei punti più vulnerabili dell'Eurozona e l'Eurozona era considerata il rischio più grave per l'economia mondiale almeno fino a qualche mese fa, e quindi inevitabilmente finiva sotto i riflettori. Il caso più clamoroso naturalmente fu quello del vertice di Cannes di 2 anni fa. Adesso diciamo che il focus si è spostato su altri temi, la crisi dell'Eurozona è in parte rientrata anche grazie ai famosi interventi verbali di Draghi, e il focus delle preoccupazioni diciamo si è un po' spostato soprattutto sui paesi i grandi paesi emergenti che fino a qualche tempo fa erano considerati il motore della crescita mondiale, adesso sono in rallentamento, qualcuno anzi abbastanza in netta difficoltà che gli stessi paesi attribuiscono al fatto che la Federal Reserve americana sta cambiando politica monetaria e quindi i capitali fuggono da questi paesi per andare o per tornare in America. Quindi diciamo è vero che l'Italia non è più un sorvegliato speciale, diciamo che ci sono altre preoccupazioni. Questo è in parte l'effetto di politiche, come ha detto Letta, forse messe in atto in Italia, e anche molto l'effetto del calmiere che Draghi ha esercitato e anche altre decisioni che sono state prese a livello europeo hanno esercitato sulla crisi dell'Europa. È vero, anche perché infatti questo è talmente vero che giornate come quella di ieri, che hanno visto un calo abbastanza deciso della borsa almeno rispetto alle altre piazze europee, proprio perché di nuovo si era tornata a ventilare questa crisi politica, in altri momenti una giornata come quella di ieri si sarebbe riflessa tutta inevitabilmente sullo spread, che si sarebbe ampliato a dismisura. Ieri invece è stato abbastanza stabile, le vendite hanno prevalso appunto in borsa, proprio perché c'è ormai questa, come dire, cassaforte che Mario Draghi potrebbe essere pronto ad impiegare qualora appunto ce ne fosse bisogno. Lo scudo Draghi appunto rassicura un po' tutti gli investitori. Detto questo, andiamo al tema invece che hai citato, Alessandro, il tema dei gli ex paesi emergenti. Ormai sono completamente emersi e adesso stanno andando in crisi, in difficoltà. L'area dei BRICS ha espresso la sua preoccupazione in maniera formale al vertice di San Pietroburgo, perché appunto queste economie dicono andremo ancora in ulteriore difficoltà qualora la Federal Reserve iniziasse questa sua iniziativa di tapering, cioè la progressiva riduzione dello stimolo monetario che ha garantito fino a questo momento all'economia. Però è anche vero che gli Stati Uniti hanno risposto sempre a San Pietroburgo, non è questa la sede adatta a ricevere una, come dire, lamentela di questo tipo, perché qua c'è il presidente dell'amministrazione americana, non c'è il presidente della Federal Reserve. Qual è la situazione su questo? Ma in effetti questa discussione è un po' anomala, nel senso che evidentemente dovrebbe coinvolgere i banchieri centrali, che tradizionalmente a questi summit invece prendono parte. È interessante notare che Draghi oggi da Francoforte ha fatto osservare che tutte queste tensioni, sia quelle sui paesi emergenti sia quelle possibili che potrebbero derivare dalla situazione geopolitica, dalla crisi in Siria, saranno affrontate già questo fine settimana dai banchieri centrali a Basilea. Sono sempre loro un po' sulla prima linea. È vero però che c'è molta insoddisfazione da parte dei paesi emergenti su come la Federal Reserve si sta muovendo, soprattutto sull'incertezza in cui sono stati lasciati i mercati, che per questo hanno reagito in modo abbastanza brusco. Cioè, parlavo oggi con un funzionario brasiliano, il Brasile è stato il più aspro, se vogliamo, nelle critiche verso gli Stati Uniti, ma assecondato anche dalla Cina, dall'India, e mi diceva: noi riconosciamo la necessità che la politica monetaria americana vada normalizzata, sono stati anni di stimolo eccezionale, però lo facciano in modo prevedibile e ordinato, in modo che non ci siano questi scossoni, questi sussulti di mercato come ci sono stati in questi mesi, perché poi è uno svantaggio per tutti. Certo, se non ho capito male sta già circolando la bozza delle conclusioni del G20, dove si esprime molto chiaramente la necessità di sostenere la crescita e l'occupazione di lungo periodo. Però è anche vero che i paesi appunto che partecipano hanno detto: dobbiamo aggiornare la nostra agenda con obiettivi più concreti e mirati. Non hanno portato delle ricette molto convincenti? Ma c'è questo piano d'azione, cosiddetto piano d'azione di San Pietroburgo per la crescita e l'occupazione. È vero anche che questi piani d'azione varati prima dal G8 e poi dal G20 si sprecano in questo genere di summit, e poi in gran parte la loro applicazione viene demandata alle autorità nazionali, e quindi poi sono sempre i governi che devono mettere in atto tutte queste misure che vengono concordate a livello internazionale. È vero anche che per la prima volta forse c'è un'attenzione particolare alla questione lavoro, che in altri casi era passato un po' sott'ordine, prima alla gestione straordinaria della crisi negli anni 2008-2009 e poi alle questioni, diciamo, stabilità o austerità contro crescita, che avevano diviso a lungo soprattutto gli Stati Uniti d'Europa, in particolare la Germania. Adesso c'è questo focus sul lavoro, la disoccupazione resta alta anche nei paesi che stanno crescendo di più, e quindi c'è questa serie di prescrizioni, di politiche attive per il mercato del lavoro per cercare di far rientrare questo fenomeno in particolare per quello che riguarda i giovani. Certo, un'ultima domanda, Alessandro, poi ti lasciamo. Il ministro dell'economia Saccomanni, oltre ad aver riespresso di nuovo il suo ottimismo su una attenuazione, diciamo, della caduta dell'economia italiana, ha anche fatto delle osservazioni relativamente alla battaglia contro l'evasione fiscale nel nostro paese. Questo lo voglio dire perché tra un po', tra l'altro, ne parleremo con quello che succederà la prossima settimana con l'invio in Italia delle prime richieste di accertamento, appunto, contemplate nell'ambito dell'iniziativa Redditometro. Sulla battaglia per un'equa imposizione fiscale è tornato Saccomanni, cosa ha detto? Ma ha ricordato che sarà un'iniziativa importante qui al G20, che è quella varata dall'OCSE, già approvata dai ministri finanziari a Mosca il mese scorso, che prevede in sostanza due cose. Una è cercare di limitare l'elusione o l'aggiramento delle imposte da parte delle multinazionali, che tendono a spostare i profitti nei paesi a tassazione più bassa o cercano addirittura di non pagarle affatto le imposte. E l'altra cosa è questo scambio automatico di informazioni fra le autorità fiscali dei vari paesi, che di fatto elimina, se vogliamo, il segreto bancario. Questa però è una battaglia ancora tutta da completare, perché si è avviato un processo ma non verrà completato prima del 2015. Un'altra agenda. Passi che si muovono abbastanza lentamente. Prima di andare al redditometro volevo far sentire però un altro brano che ci arriva da San Pietroburgo, uno che si riferisce alle parole del ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni a proposito del processo di ripresa dell'economia italiana. Lui lo ha ribadito: è in corso, stiamo uscendo dalla fase di recessione. Il processo di ripresa dell'economia italiana è in corso. Recenti dati che sono stati pubblicati dall'OCSE sono, come purtroppo spesso accade in questi momenti, di valenza più che altro retroattiva. Estrapolano per l'anno, diciamo, i dati del primo e del secondo trimestre dell'anno, che sono stati chiaramente negativi. Abbiamo molti altri segnali che ho spesso ricordato di natura congiunturale, che vanno dalla produzione industriale agli indici dei purchasing manager, sia nel campo delle attività industriali che dei servizi. Ci sono dati di fonte fiscale che confermano che la ripresa è in corso. Quindi, da questo punto di vista, noi, sia pure appunto portandoci dietro le nostre debolezze strutturali, stiamo uscendo dalla fase di recessione. Stiamo uscendo dalla fase di recessione, però l'incertezza politica dovrebbe essere scongiurata, si spera, perché è un fattore negativo dal punto di vista della ripresa, della fiducia sulla capacità di crescita economica. E con questo ha terminato Saccomanni. Incertezza politica, e invece abbiamo la totale certezza del redditometro. Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Tutti questi mesi abbiamo agitato questo spettro addosso, appunto, ai nostri ascoltatori, e adesso, altro che spettro, concretizziamo questo strumento, appunto, di accertamento, speriamo almeno, di presunti evasori. Dalla prossima settimana qualcuno riceverà una lettera non tanto gradita. Beh, le liste sono pronte, quindi i nomi dei 35.000-40.000 contribuenti che nel 2009 si presume abbiano fatto i furbi sono pronte, e nei prossimi giorni partiranno queste lettere di convocazione per questo primo colloquio che il direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera nei mesi scorsi ha chiarito dovrà essere assolutamente cordiale, un momento di confronto in cui il funzionario semplicemente chiederà spiegazioni del perché nel 2009 si è dichiarato un certo reddito, mettiamo 20.000 euro, 30.000 euro, e d'altro canto risultano invece al fisco delle spese, mettiamo, di 70.000, 80.000 euro, proprio perché in questa prima tornata Quindi di controlli. Questa è la misura della furbizia, diciamo, questo ancora una volta per rassicurare coloro che magari per aver fatto delle banali operazioni intrafamiliari o chissà che cosa temono di ricevere un accertamento di questo tipo. Esattamente, si colpiranno i casi di evasione spudorata, i casi così sono stati definiti più eclatanti, in una fase in cui appunto il 2009 non c'era ancora la legge, né si doveva documentare, si era tenuti a documentare una serie di spese. Pensiamo all'uso del contante: oggi è vietato pagare in contanti acquisti superiori ai 1.000 euro. In quel momento, cioè nel 2009, il limite era 12.500 euro. Quindi c'è bisogno di tolleranza da parte del fisco e c'è stata, ripeto, assicurata più volte che la caccia sarà riservata agli evasori più diciamo meno attenti a frodare il fisco, mettiamolo in questi termini. Tra l'altro, se facciamo anche una questione di statistiche, questi 40.000 controlli riguarderanno, dato che ci sono 40 milioni di dichiarazioni dei redditi, lo 0,1% insomma, dei contribuenti. Serve questa campagna però per creare per migliorare la tax compliance, cioè per migliorare l'atteggiamento di fedeltà degli altri contribuenti, quelli che sono, diciamo, fedeli o che magari hanno fatto piccole marachelle, che da questo momento però sanno che invece ci sono gli occhi del fisco e delle banche dati soprattutto, perché in questa prima colloquio il fisco non imputerà per esempio le spese ricavate dalle medie Istat relative all'abbigliamento, alle spese più comuni come gli alimentari, che tanto hanno fatto discutere nei mesi scorsi, ma farà riferimento proprio a spese certe e documentate. Classico esempio: l'acquisto di una casa, l'acquisto di un'automobile. E in quel caso si chiederà al contribuente come è stata finanziata questa spesa, qualora ci sia appunto una netta discrepanza, ripeto, molto troppo evidente, tra quanto si è dichiarato e quanto risulta. Si è speso. Ecco, io voglio ricordare, lo anticipo ai nostri ascoltatori, che domani questi aspetti, ancor più nel concreto, li affronteremo a Salvadanaio dalle 12 alle 13, sempre con Marco Bellinazzo e con altri ospiti. Però magari qualche indicazione sulle modalità con cui appunto poi avverrà il colloquio con il funzionario dell'entrata, che ci chiederà delle spiegazioni. All'inizio, dopo l'invio di questa documentazione, di questa lettera, il primo accertamento avverrà in maniera del tutto verbale. Marco? Sì, appunto, non sarà un accertamento, quindi ecco, ti correggo subito, certo, giustamente. E così chiariamo che non si tratta in quella fase di un accertamento, ma di un colloquio. E tra l'altro la lettera che arriva è un questionario, se non sbaglio. È una sorta di questionario in cui si dice: il fisco sa che ha speso queste somme, ci sono una serie di spese che si presume tu abbia fatto, per esempio se hai acquistato un'auto, se hai un'auto si presume che tu abbia fatto un tot di spese per il mantenimento, per il cambio gomme, per eventuali guasti, e in quel caso, diciamo, c'è una piccola presunzione, ma è marginale. Dopodiché toccherà al contribuente, ripeto, fornire spiegazioni, e sarà fondamentale in quel momento il ruolo dei conti correnti, cioè dei risparmi accumulati, perché fra un paio d'anni il fisco avrà la possibilità di avere direttamente le informazioni sui nostri conti correnti, sulle movimentazioni, sui saldi, perché finirà tutto all'anagrafe dei conti. Dal 31 ottobre banche, intermediari finanziari dovranno alimentare questa banca, ma varrà dal 2011. Per il 2009 il fisco non conosce queste informazioni, o per meglio dire potrebbe conoscerle nell'anagrafe tributaria, dove ci sono presenti, diciamo, i numeri di rapporti finanziari, e quindi si può accedere ai saldi, ma deve far partire una vera e propria indagine finanziaria, cioè un meccanismo più complesso. Allora in questa prima fase il fisco ti chiederà di documentare. Quindi dovrai essere tu in maniera spontanea a dire se hai, per esempio, hai comprato una casa di 300.000 euro e hai un reddito di 50, dovrai per esempio portare la documentazione sui saldi iniziali e finali dei tuoi conti correnti o i bonifici ricevuti, per esempio, se sei un giovane, dal padre in aiuto, in sostegno, oltre le spese del mutuo, l'Agenzia delle Entrate già le conosce. E quindi spiegare in quel modo come hai coperto la differenza. Certo. Quindi sarà importante rispondere con questa documentazione. 30 secondi, andiamo alla ciccia, Marco, solamente per dire: se il contribuente non è assolutamente nella condizione di poter giustificare la sua spesa, che cosa Se non convinci succede? Il funzionario, sei antipatico al funzionario, ti parte il vero e proprio accertamento con adesione, può partire l'indagine finanziaria e lì le cose si complicano, ma lo spiegheremo domani. Molto bene, quindi lasciamo in sospeso tutte le conseguenze per chi non è in regola. regola. Intanto cercheremo anche di capire, tu le lettere che arriveranno in questi giorni hai avuto modo di vederle? L'agenzia delle entrate un facsimile te l'ha mandato? Ufficialmente no, ufficialmente non le ho viste, ma domani ma chiamiamo l'ufficio stampa di Befera per vedere appunto se ce ne fa vedere una. Intanto grazie a Marco Bellinazzo, grazie per essere te, stato Deborah. Con noi, grazie a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per la collaborazione in redazione, Paolo Corleoni in assistenza tecnica. Domani state tranquilli, torna Sebastiano Barisoni con voi, che peraltro sarà in diretta da Cernobbio. Intanto da Deborah Rosciani a tutti buona serata.